aiutami a sentire. Capita a volte, poi che la tristezza mi sfiora appena con la sua carezza, ma è quel piacere, dispiacere, sai, ho imparato anch'io a godere. Sentire.